in primo piano. Mercoledì 6 aprile, le aperture dei quotidiani sono quasi tutte concentrate sul voto alla Camera. Ieri, nel giorno in cui oggi inizia il processo a Berlusconi, il processo Ruby, il no della Camera ai PM di Milano, così titola il Corriere. La Camera, per precisare, ha votato di sollevare il conflitto di attribuzione alla Corte Costituzionale per dire non è il Tribunale di Milano, ma bensì il Tribunale dei Ministri che dovrebbe processare Berlusconi. Per Repubblica, Ruby, la Camera vota contro i PM. La Stampa, Ruby, la Camera dice no ai PM, titoli molto simili. Libero, Silvio vince, mica tanto. La Camera dice no ai PM, ma non servirà a nulla, così la mette Libero. Per il Fatto Quotidiano, invece, delinquente o innocente, questo processo si deve fare. Per il Giornale, invece, processate la Boccassini, colpo basso dei PM, per che cosa? Per le intercettazioni finite ieri sul Corriere di tre telefonate del Premier. Per l'Unità c'è la foto di Napolitano, il capo dello Stato, il titolo è Tra le macerie. Mentre per il Messaggero, Ruby, no della Camera ai PM. L'apertura invece del Sole 24 Ore dedicata alle banche, per la precisione a Intesa. Intesa vara il maxi aumento, sia unanime ai vertici all'operazione da 5 miliardi al piano industriale che punta a 4 miliardi di utili nel 2013. Le segnalazioni da cui voglio partire. La prima è una vicenda di cronaca del vigilante che ha sparato e ha ucciso due persone, due rapinatori, e che da ieri è accusato di duplice omicidio. Tutti i colpi ad altezza uomo. Il vigilante finisce in carcere. Così la mette il Corriere della Sera a pagina 20, accusato di omicidio per aver esploso 15 colpi da non più di 3 metri di distanza, inseguendo i banditi in fuga. E quando il caricatore della sua Beretta 98 ha esaurito i proiettili, la guardia giurata ha chiesto al suo collega di passargli l'arma. Cosa sia passato per la testa di Mauro Pelella, vigilante 34enne della Fidelitas, che lunedì pomeriggio ha freddato due rapinatori a Quinzano d'Oglio, appare tuttora incomprensibile. Infatti una carriera, mai una mancanza, mai un gesto fuori posto in 7 anni di lavoro. Ora dice: ho rovinato la mia vita, quella di mia figlia che deve ancora nascere, ha detto a chi l'arrestava. E nel frattempo la figlia è nata ieri, proprio nel momento, lui non l'ha neanche vista la nascita della figlia, perché è stato arrestato per duplice omicidio. Ovviamente l'opinione pubblica si è spaccata, anche La Stampa vi dedica una pagina: duplice omicidio volontario, il vigilante finisce in carcere. Il PM dice voleva uccidere i due rapinatori che si sono presentati, sono armati di coltello e stavano fuggendo. Il sindaco però lo difende, sul web è diventato un eroe. Anche per Libero, in prima pagina, il vigilante eroe per la gente e assassino per il PM. È una vicenda che certo fa molto discutere, ricorda quella del tabaccaio, è diversa, ogni vicenda è diversa ovviamente, del tabaccaio che è stato assolto per legittima difesa putativa di recente, di cui ci siamo anche occupati. Il tema è quello della legittima difesa, fin dove si possa spingere la legittima difesa, fin dove il codice penale consenta di considerarla legittima difesa, e dubito che questa possa essere considerata per il codice legittima difesa. Poi il sentimento comune, insomma, può pensare quello che vuole. Ripeto, 15 colpi esplosi a più di 3 metri di distanza, d'altezza d'uomo, coi banditi in fuga, e poi ha chiesto, finito il caricatore, al suo collega guardia giurata di passargli l'arma. È una vicenda certo che fa molto dibattere. L'altra segnalazione che voglio dare riguarda Papa Wojtyła, che tra poco sarà beato e presto anche santo. È tutto pronto ovviamente in Vaticano per i grandi festeggiamenti. Ci sono due pagine su Repubblica e sulla Stampa che per la verità non si mettono d'accordo su una cosa, perché Wojtyła prenota un posto sul calendario, festa il 2 aprile come per i santi. Così Repubblica. Sarà beato tra poche settimane, santo presto anche se non subito. Solo che la data prescelta, secondo Repubblica, secondo Marco Ansaldo, sarà per la santificazione, per commemorare il santo Wojtyła, sarà quella della morte, il 2 aprile. Per invece la Stampa c'è proprio un dubbio su questo. Milioni di fedeli per Wojtyła beato, ma il giorno della morte, 2 aprile, è già occupato, quello per la data di santificazione, di celebrazione. E il Vaticano allora ipotizza il 16 o il 22 ottobre. In Vaticano stanno studiando una soluzione opportuna, racconta il vaticanista della stampa Giacomo Galeazzi, perché il 2 aprile è già occupato da San Francesco da Padova. E allora si ipotizza o il 16 ottobre, cioè l'elezione al soglio pontificio, o il 22 ottobre, vale a dire l'incoronazione, come possibili future date per celebrare Papa Wojtyła santo. Giallo sulla data in cui ricordarlo, così racconta la stampa. Ma entrambi i quotidiani, Repubblica e Stampa, sono d'accordo su una cosa: è già tutto pronto, con un'accoglienza pare di 2 milioni di pellegrini. Questo a partire dal 29 aprile, quando dalle tombe nelle grotte vaticane verrà riesumata la bara che contiene la salma di Papa Wojtyła. Non ci sarà l'esposizione della salma perché la morte è recente, non ci sono motivi di ispezione della reliquia, poi ci saranno tutte le celebrazioni del caso. Notizia del giorno è sicuramente, secondo i giornali, per quel che riguarda la notizia politica, è che ieri la Camera, per 12 voti di scarto a favore della maggioranza, ha deciso di sollevare il conflitto di attribuzione presso la Corte Costituzionale per quel che riguarda il processo Ruby. Cosa vuol dire, detto in parole molto semplici? Secondo la Camera, non è il Tribunale di Milano che deve processare eventualmente Berlusconi, ma semmai il Tribunale dei Ministri. Per questo si chiederà l'intervento della Corte Costituzionale, che a questo punto dovrà pronunciarsi sul merito, perché la Camera ha deliberato così. Per la verità, i tempi della decisione della Corte Costituzionale sono molto lunghi, come ricorda il Corriere a pagina 12, scusate, a pagina 2. Non si pronuncerà prima di un anno circa, prima del primo trimestre 2012. Per la verità, la consulta dovrà prima decidere l'ammissibilità o meno della richiesta della Camera. E poi, invece, nel caso ci sia l'ammissibilità, dovrà decidere sul merito, cioè decidere se il processo si deve spostare al Tribunale dei Ministri o può rimanere a Milano. Nel frattempo, il processo che fa? Sempre come racconta il Corriere, non c'è l'obbligo, non c'è un'ipotesi tassativa di sospendere o no il processo a Berlusconi. Certo, a discrezione del Tribunale di Milano si potrebbe decidere se sospendere il processo o se nel frattempo farlo andare avanti in attesa che la consulta si pronunci. L'altro aspetto che è registrato da tutti i cronisti è il clima che all'interno della Camera, è vero, è stata animata la piazza col PD che ha protestato, con il Popolo Viola che ha protestato, ma all'interno della Camera si è ricomposto un clima molto più sereno rispetto alle scene che avevamo viste davvero imbarazzanti della scorsa settimana. Ci sono anche tutti i retroscena sulla questione dei parlamentari, allora 12 parlamentari di maggioranza. Il Corriere della Sera con Francesco Verderami racconta che la strategia messa in atto da Verdini, Denis Verdini, uno dei massimi esponenti del PDL, è quella, la strategia del magnete, deputati in più dopo ogni voto. Non è un caso, racconta Verderami, se la maggioranza aumenta di numero ad ogni votazione che si preannuncia decisiva. È dal 14 dicembre che lo schema si ripete. È quella della strategia del magnete, cioè fare vedere all'opinione pubblica, una strategia politica e mediatica studiata da Denis Verdini, coordinatore del PDL, per mostrare un centrodestra capace mese per mese di allargarsi, un magnete, eccola qui la strategia del magnete, un magnete in grado di attrarre consensi in Parlamento ad ogni votazione. Una vera e propria strategia politica, secondo il Corriere della Sera. Ovviamente ci sono anche varie interviste, per esempio Italo Tanoni, esponente dei Lib Dem, intervistato dal Messaggero a pagina 2, ha votato. E la domanda è: perché ha tradito, onorevole Tanoni? Ma tradito, io ho votato sì al conflitto di attribuzione, cioè ha votato con la maggioranza. Però lei in aula con la mano ha nascosto la lucina verde del sì. Ha provato pudore? Pudore. Io sono orgoglioso, la mia è una scelta ponderata. E poi dice: rimaniamo comunque nella maggioranza, non mi ha promesso nulla. È sempre la solita accusa. Che cosa le ha promesso Berlusconi? Non mi ha promesso nulla, ma lei pensa di meritarsi un posto di governo? La capacità ce l'avrei. Le accuse sono più dure nei confronti invece di una deputata che era finiana e poi al giorno della fiducia, il 14 dicembre, è passata a votare la fiducia al governo, Maria Grazia Siliquini, che racconta il Corriere della Sera pagina 2 e più dettagliatamente il fatto che la intervista con Beatrice Borromeo a pagina 10 ha avuto un posto al CDA, nel Consiglio di Amministrazione delle Poste. Ora, lei si adombra, lei si arrabbia, è una fesseria, cioè pensare che questo sia stato una sorta di ricompensa per il voto alla maggioranza. Lavoro nella società civile, nel ministero e in Parlamento da una vita, ho competenze, esperienze, curriculum, sono incriticabile, dovrei rinunciare a ruoli di alto livello solo perché sono un deputato? Così inizia l'intervista al Fatto con Beatrice Borromeo. Potrei capire i sospetti se fossi una ragazzotta di prima o seconda legislatura, invece ho 62 anni, 35 di professione forense alle spalle, 5 passati al governo, ho un curriculum d'eccellenza. Ma lei però è tra le più assenteiste e tra le più trasformiste, ha passato PDL, FLI responsabili. Ma non mi faccia ridere, e ride. Solo io in Parlamento ho motivato politicamente la fiducia a Berlusconi. Insomma, Maria Grazia Siliquini che si arrabbia molto per il sospetto di essere stata messa nel CDA delle Poste come ricompensa politica. Ma chi l'ha chiamata per dirle questo? Non glielo dico, risponde al Fatto. Quanti dipendenti lavorano per le Poste? Sicuramente meno che al Ministero dell'Istruzione, dove sono 1.200.000, risponde l'onorevole Siliquini. Beh, mi dica, a grandi linee, quanti dipendenti? Qualche migliaio, non lo so. Sono 150.000, onorevole. Sa quanti uffici postali ci sono? Sono appena arrivata. Come faccio a saperlo? È un'intervista anche molto scoppiettante, eh? Ma se conosce le Poste così poco, perché è stata cooptata? Chiede Beatrice Borromeo. Senta, la fiducia è stata a dicembre. Non c'è alcun collegamento, è passato troppo tempo. Ho la coscienza tranquilla. Il mio unico errore è stato seguire Fini. Insomma, volano le nuove accuse, no? Le accuse di avere comprato, tra virgolette, dei voti con delle ricompense politiche. La giornata ieri ha fatto esultare il presidente del Consiglio Berlusconi nei retroscena politici per il voto alla Camera. Certo, un Berlusconi che però attacca duramente il giorno dell'apertura oggi al processo Ruby. Ha detto: i PM adottano con me una strategia brigatista. Questa è una frase che è riportata un po' da tutti, perché si riferisce a quelle tre intercettazioni che non dovevano, di telefonate, tre sbobinature di telefonate che non dovevano essere messe agli atti, che sono finite negli atti e che il Corriere ieri ha pubblicato. Oggi ce n'è una quarta, il Corriere pubblica anche quella. C'è un Bruti Liberati, capo della Procura di Milano, a questo proposito, che il Corriere dà per imbarazzato. Arriva in scuro in volto il procuratore capo di Milano, solca il corridoio dell'ufficio, dice: non ho nulla da dire, ho disposto accertamenti. Il Giornale attacca molto duramente in prima pagina: processate la Boccassini. Per che cosa? Per queste intercettazioni che, scrive il suo direttore Sallusti, finiscono sui giornali, è un reato, ma chi pagherà? Marco Travaglio invece in prima pagina del Fatto fa un lungo articolo, il suo articolo che c'è consueto in prima pagina, per dire: in realtà la Corte Costituzionale in passato si è espressa dicendo che le intercettazioni, qualora coinvolgono un parlamentare e sono interessanti, possono essere pubblicate, dunque poteva essere pubblicato. Insomma, c'è anche dibattito, mistero su questa pubblicazione o meno. Sta di fatto che ce n'è una quarta, eccola qui, la pubblica il Corriere a pagina 8, una quarta telefonata che avviene tra Berlusconi e Nicole Minetti. Quando Nicole Minetti ha prestato un'auto a Maristel Polanco e su quest'auto viene fermato il fidanzato di Maristel Polanco, che poi viene arrestato per traffico di cocaina. Allora la consigliera regionale è stupita: ho pianto come una disperata. Ed ecco qui, parla con Berlusconi che dice: hanno chiarito tutto. E la Minetti: io la macchina l'ho prestata alla Maristel, che me l'ha chiesta perché ha detto che la sua si era rotta, e mi fa un lavoro così? Cioè le combina un guaio così, traduco io. Berlusconi annoisce più volte, definisce la Polanco leggera, sbadata, e aggiunge: stamattina è arrivata la cosa accertata, l'assoluta estraneità della consigliera Minetti nella vicenda di cui ieri. Il premier poi parla del suo stato di salute, dice: sono un leader dimezzato, sono un'anatra zoppa, zoppico quando cammino. E però c'è un proverbio che dice: meglio zoppicare sulla strada giusta che correre sulla strada sbagliata. E questo proverbio mi consola. Ah beh, risponde la Minetti, questo è vero, sei sempre positivo, amore mio. Vabbè, un'intercettazione che in questa seconda parte non dice granché. Tra l'altro Nicole Minetti viene anche intervistata, una brevissima intervista da Giuseppe Guastella sul Corriere. Dice: ho grande fiducia, certo che mi sono risentita con Berlusconi, siamo più uniti che mai. Le altre ragazze le ha sentite? Qualcuna sì, altre no. Intervistata anche Raissa Scorchina, quella che nell'intercettazione con Berlusconi diceva mi è finita la benzina, e Berlusconi diceva va bene, chiamo il ragioniere Spinelli, cioè colui che gestisce i conti. È un modo di dire, dice Raissa Scorchina, come altri che usiamo tra noi per scherzare. Beh, ma intendeva denaro, no? Certo, e cosa c'è di male? Ci conosciamo da troppi anni. Ogni tanto Berlusconi mi fa, vedi Raissa, forse sono l'unico uomo che non ha mai cercato di approfittare di te. Ed è vero. L'ho visto molte volte, non ho mai visto le scene di cui parlano i giornali. All'improvviso l'intervista si conclude perché lei urla, basta Silvio! E che succede? È il mio pappagallo. L'ho chiamato così, Silvio. Vabbè, insomma, c'è grande attesa per questo processo, ma ripeto, questa sarà un'udienza tecnica. Tra l'altro, il rapporto Silvio Berlusconi-donne, oggi Libero, in prima pagina mette una notizia che ha solo il quotidiano di Feltri e Belpietro. Il cavaliere regala una reggia alla Ravot, Cristina Ravot, indicata come possibile fidanzata di Berlusconi. Dono di Silvio alla bella, una reggia a Roma. Rita Cavallaro ne parla a pagina 7. Non si sa se sia la fidanzata di Berlusconi, ma il premier deve volerle bene, visto che le ha regalato un lussuosissimo appartamento nel cuore della capitale. Alla cantante sassarese di 37 anni, grande metratura, 4 camere, cucina, 2 bagni, un palazzo che si affaccia sulla statua di Giordano Bruno a Campo dei Fiori. Valore 1.700.000 euro. Il 12 giugno 2008 Cristina Ravotta si è presentata allo studio del notaio Igor Genghini, ha comprato con 4 assegni circolari da 500.000 euro, per un totale di 1.700.000 euro, emessi dalla filiale di Segrate della banca Monte Paschi di Siena, dove ha il conto Silvio Berlusconi. Come si sono conosciuti i due? Galeotto fu Mariano Apicella, vale a dire colui che anima anche le serate canore di Berlusconi. Sotto il titolo Clima orrendo, Libero racconta questa storia. Il dono di Silvio alla bella Cristina Ravotto, una reggia a Roma da 1,7 milioni. O nella giornata convulsa di ieri c'è anche chi, 5 parlamentari, hanno proposto una cosa che ha fatto molto discutere, quella di abolire la 12ª norma transitoria della Costituzione, quella che vieta la ricostituzione del partito fascista. Non sia più reato il fascismo, la proposta del PDL scatena la bagarre. Questo su Repubblica. Per la verità, PDL, ma non solo, perché per l'Unità c'era anche la firma di un deputato di Future Libertà, tale, vai a trovarlo adesso, Egidio Digilio, il quale su ordine di Italo Bocchino poi ha ritirato all'ultimo momento la firma. E quindi rimangono 5 firme del PDL: Cristiano De Ecker, Fabrizio Di Stefano, Francesco Bevilacqua, Giorgio Bornacin e Achille Totaro. Questi 5 firmatari, per la verità, Achille Totaro, intervistato dal Messaggero a pagina 9, dice: quanto chiasso per una questione tecnica. Sono convinto che chi pensa di poter rifondare il partito fascista debba andare da un bravo psichiatra. E allora perché avete proposto di togliere questa norma che ne vieta la ricostituzione? Per una questione tecnica. Mi hanno convinto gli argomenti dei colleghi che sostenevano che una norma in quanto transitoria deve essere abolita dopo un ragionevole lasso di tempo. E invece è ancora lì. Anche su Libero, però, in prima pagina, Libero, lo cito perché Libero pubblica a tappe da giorni i presunti diari del Duce, Vittorio Feltri fa una nota in prima pagina dicendo non è stagione in cui bisogna riscoprire le delizie dell'olio di ricino, davvero c'è un però. Non si sentiva davvero nella presente congiuntura il bisogno di questa trovata, insomma una stroncatura quasi bipartisan, tranne sul secolo XIX scovo Scaiola, che qualche giorno fa, dopo la rissa con la Russa, è stato sentito da dire in Parlamento non moriremo fascisti. Lui smentisce, non ho detto quella frase, ma al secolo XIX dice questa frase: se però qualcuno nel PDL chiede l'abolizione della norma che vieta la ricostituzione del partito fascista, dico che effettivamente quella norma è antiquata. Insomma, Scaiola, quella norma è davvero antiquata. L'unico che si apre un po' a questa possibilità di abolire la norma che vieta la ricostituzione del partito fascista. Devo dire, se prendo in mano il Sole 24 Ore, che come detto oggi apre su Banca Intesa, che vara il maxi aumento con il governatore di Banca Italia Draghi, che dice molto incoraggiante il rafforzamento delle banche italiane. Ma dico, se prendo in mano la prima pagina del Sole 24 Ore, mi viene da pensare che siamo un paese un pochino bizzarro, perché ci stiamo concentrando, ci si concentrerà sul processo a Berlusconi, che per carità è un momento importante, e poi uno legge l'inchiesta che Lionello Mancini firma in prima pagina sotto il titoletto "Perché l'Italia non cresce, giustizia negata da 2,6 miliardi, E uno pensa, ci dovrebbero essere inchieste quotidiane, approfondite, paginate sui giornali sul disastro della giustizia civile, il vero disastro della giustizia italiana, e invece no, ogni tanto c'è qualche inchiesta come questa che vi segnalo, un'intera pagina, pagina 13 appunto, con Lionello Mancini che racconta come la giustizia lenta non faccia business, alcuni dati impietosi. Le cifre sono queste, aggiornate dal Ministero, dal Ministro Alfano. Alla fine del 2009, sapete quanti procedimenti civili erano pendenti? 5.826.440 pendenti. Siamo anche un popolo molto litigioso, questo è da dire. Secondo il documento Italia 2015, redatto da Confindustria per indicare le criticità e le priorità del Paese, la giustizia civile viene al secondo posto dopo la pubblica amministrazione e prima delle infrastrutture, dunque secondo problema per Confindustria. Secondo la CGA di Mestre, che è sempre pronta a snocciolare dati, il malfunzionamento della giustizia costa alle imprese ogni anno 2,6 miliardi di euro. Certo, racconta Mancini, a metà marzo il guardasigilli Alfano, il titolare della pubblica amministrazione Brunetta, hanno lanciato un piano straordinario per la digitalizzazione della giustizia con una dote di 50 milioni, dovrebbe raggiungere tre obiettivi importanti in 18 mesi: la digitalizzazione degli atti, le notifiche online, i pagamenti online. Non è neanche il primo tentativo di velocizzare il servizio ricorrendo all'informatica, ma certo, anche un altro dato, lo volete, un credito in Italia si recupera in 1250 giorni, mediamente. Sapete in Francia in quanti? 330. Più del quadruplo in Italia. Ecco, allora, forse le vere inchieste giornalistiche sullo sfascio della giustizia dovrebbero partire da qui. Noi nel nostro sondaggio parliamo della vicenda di questo Madoff dei Parioli, una vicenda che ci ha appassionato, mi ha appassionato, perché suscita varie considerazioni sui rapporti tra noi e il denaro, tra considerazioni tra noi e il denaro e il patrimonio. Oggi sui giornali ancora ci sono tante notizie sul Messaggero, comprensibilmente, visto che è una vicenda che soprattutto ha coinvolto molti VIP a Roma che hanno affidato i loro risparmi, alcuni fino a 5 milioni di euro, come l'ex calciatore Ruggero Rizzitelli, che oggi parla al Messaggero e dice: sono stato tra i primi a investire 15 anni fa. Tra l'altro ha coinvolto in qualche modo anche altri calciatori, l'ex portiere Andrea Pazzagli, Giovanni Stroppa, Stefano Desideri, Massimo Agostini, Giuseppe Zinetti, anche il portiere della Roma Doni. In questa che risulta una mega truffa, pare 170 milioni di persone truffate di euro truffati a persone che, vi chiediamo nel nostro sondaggio, secondo voi sono più vittime oppure sono più sprovveduti, perché insomma venivano date promesse anche di finanziamenti sicuri con rendite finanziarie al 20%. Viene intervistata un'altra delle Guzzanti. I Guzzanti ci sono finiti davvero nella rete, il padre Paolo, la figlia Sabina, e ora Caterina Guzzanti, intervistata al Corriere, dice: io conosco Torregiani, una delle persone che è stata arrestata, fin da bambina veniva in casa mia, fumava il sigaro, tutta la stanza si riempiva di quell'odore, ha gestito i risparmi della mamma. Il fatto che la truffa sia stata compiuta da una persona di fiducia fa male, insomma questa storia mi toglie il sonno. E ecco qui il fastidio più grande: è il fatto di venire raccontati come avidi. Ho letto di interessi al 20%, ma i miei erano del 4, forse del 5. Poi si parla di cifre virtuali mai viste. Io non ho mai investito 88.000 euro. C'è anche la disperazione dello chef, anche del Papa, Heinz Beck, che dice: io non so più come dirlo, da una settimana non ne posso più, non ho investito un euro con quella gente, non ho perso un euro, ma non è così, lo giuro, non so più cosa fare, ogni giorno c'è un nuovo dettaglio, adesso è uscita anche la cifra, cosa devo fare? Affermare il falso? Ammettere di aver investito soldi, di averli persi? Non so cosa pensare, è una situazione kafkiana. Eppure è nella lista, insieme il Corriere Pubblica, pagina 21, i primi, chi ha investito di più? Franco Gargani, 5 milioni 400 mila euro. Daniela Malpighi, 5 milioni di euro. Ruggero Rizzitelli, al terzo posto, 4 milioni 895 euro. Gente che ha investito i risparmi di una vita. Massimo Ranieri, 1 milione 805 mila euro. Insomma, ne parleremo alle 8.30. Avremo anche un paio di queste persone che sono state truffate. Ci sono anche dei politici, i democratici anti-scudo che poi lo usano e si fanno pure fregare. Questo è il titolo di Libero con Franco Bechis. In prima pagina si concentra su il parlamentare ex portavoce di Franceschini Pier Domenico Martino, che è finito in questa presunta truffa. Ne parleremo appunto alle 8.30. Io ricordo che alle 8.20 invece avremo il sindaco di L'Aquila Massimo Cialente, oggi a 2 anni dal terremoto. Oh, siamo allo sport, perché devo leggere la Gazzetta dello Sport. Ieri c'è stata una debacle, l'Inter ha perso in casa contro lo Schalke 0-4, lo Schalke 0-4, 2-5 è il risultato. No, mi sono ingannato, perché la stampa titola proprio così: Schalke 0-5, disastro. C'è sempre la partita di ritorno, insomma, non è facile. Senza difesa, così titola la Gazzetta dello Sport, suicidio dell'Inter contro lo Schalke 04, 2-5. Questo è il risultato al Meazza. Fine di un ciclo, così si chiede la Gazzetta dello Sport. Vabbè, voglio far sorridere tutti, forse anche i nerazzurri, con il rompipallone di Gene Gnocchi, con cui concludo. Oggi inizia Ruby Gate. Né Ruby né il patron del Milan saranno in aula. Si vedranno da un'altra parte. Il giornale radio.